Se me nota. Sfere, calibro 35, eccoci qua di nuovo in diretta da Frittole per una nuova puntata delle nostre dirette speciali che ormai sono normali. La nostra trasmissione senza nome continua a rimanere senza nome, ma si accresce di molta muschetta dal vivo. E per fortuna Beppi, che ogni tanto ci ritroviamo qua in quelle di Frittole, finalmente beccarci su Mamma Wombat, wombat.noblogs.org. Bene, sì, siete in ascolto. Non so se siete sui 13:59 AM o se siete semplicemente in streaming, però insomma fatecelo capire se ci state ascoltando con questo ritardo di 20 minuti. Vi terremo compagnia, direi, per un paio d'orette. E insieme alle nostre voci, quella del reverendo, quella di Beppi, ovviamente potete sentire anche i focosi strumenti, la chitarra, il piano, effettivamente di Palmiro e di Lalbus. Grandi, grandi. Ci terranno compagnia, direi, tutta la sera. Sì, sì, allora il compito di fare da contorno a questa puntata che siamo assi, dai. La pensavamo da un pochino, adesso vediamo se siamo riusciti a realizzarla, vediamo cosa ne verrà fuori. In realtà poi, cioè, insomma, non lo so, io la pensavo da un pochino, cioè, ne scriviamo un po' di parole. Vabbè, insomma, c'è, cioè, qualcosa abbiamo fatto, qualcosa tireremo fuori. Cioè, ok, dai. Dice anche sei tu che te la sei preparata. Cosa tiriamo? Cioè, anche dai, abbiamo un sacco di cose che mi sono servite per capire delle altre cose e pensare. Del computer è quasi inutile con questi tappetini, devo neanche cercare una Yeah. E allora, vuoi fare uno stacchettino? Come volete, come volete. No, aspetta, prima fammi dire un po' che cosa che andremo a leggere, con cosa andremo a sollazzare la nostra mente durante questa puntata. Sì. Ebbene, il tema conduttore delle letture che faremo quest'oggi, delle cose che ci sono sembrate un po' più significative, insomma, è quello della tecnologia, in particolare declinata nella sua caratteristica, che è quella appunto del controllo. In questo periodo insomma sembra che sia stato un grande spinta in avanti, una grande accelerazione nella voglia di controllo da parte delle istituzioni, ma anche ovviamente delle aziende private, delle grandi aziende private, e le faccende legate, si lega sempre più il controllo adesso, no? Una volta magari si legava più a un discorso di sicurezza, adesso questa declinazione della sicurezza è quella della salute pubblica, quindi una piccola riflessione su questo, che per sempre come facciamo, no? Per dare un po' di spunti, un po' di leggere un po' di gente, voci magari anche un po' fuori dal coro, che ci hanno aiutato a ragionare su questa cosa. In particolare andremo a leggere qualcosina da Guerra di Rete, che è una newsletter di notizie cyber di Carola Frediani, una giornalista. Poi leggeremo un articolo dalla rivista Malamente, in realtà un intervento del collettivo francese di Grenoble, Pièce Main d'œuvre. E poi Albus, che vuoi dire? E poi leggeremo un piccolo estratto da questo libro che si chiama Internet Mon Amour, scritto da, penso, il collettivo Circex, che comunque non so se, vabbè, comunque gente anche di ex Ippolita o Ippolita, collettivo di Milano che proprio tratta di questi temi di tecnologie del dominio. E quindi niente, appunto, leggeremo un estratto di questo libro che ricalca un po' il Decameron, diciamo, quindi dopo un'epidemia che ha colpito il mondo, questa epidemia è dovuta, diciamo, appunto a queste tecnologie un po' malsane, e quindi la gente si ritrova fuori, lontano dalla città, e racconta di queste delle vecchie giornate in cui appunto si sono creati problemi. Ogni giorno ha un suo tema. Leggeremo comunque un estratto da questo. Dai, grazie. E per finire come ultima cosa, volevo leggere un vecchio articolo da The Jap sulla didattica a distanza. Vecchio, cioè, qualche mese. Perché comunque ancora, insomma, queste riflessioni qua sono importanti da fare, continuano a essere il pane quotidiano di molte persone, visto che tra l'altro non sappiamo neanche se gli studenti torneranno a scuola. Quindi vai, e regia, se ci puoi mandare uno stacchettino, ci sta. Assolutamente sì. Ricordo a tutte e tutti le numerose entità all'ascolto di farci capire se ci sentite, se ci sentite bene, male. In ogni caso scriveteci a frittole@gattini.ninja, questa è la mail, oppure conoscete i nostri numeri personali e non ve li stiamo neanche a dire. Intanto abbandoniamo il tappetino, beviamo una birretta e io vi faccio ascoltare Claudio Palumbo. Thank you. non sono un santo, non sono un bastardo, sono solo un compagno in ritardo. Bramavo assai comprarti un pollo, non avevo i soldi per farlo. La rivoluzione mi chiamava, ma io avevo la vibrazione. Me ne accorsi solamente quando ero in ascensore. Fischia il vento, urla la bufera. Le mie scarpe rotte sono alla moda. Fischia il vento, urla la bufera. Le mie scarpe rotte sono alla moda. Ferroviere, cosa fai? Occupiamo un punto SNAI. Non sono un santo, non sono un bastardo, sono solo un compagno in ritardo. La primavera era rossa, ma d'estate si muore di caldo. Carabiniere, tu devi morire, morire, morire, morire d'amore. Carabiniere, tu devi morire, morire, morire, morire d'amore. Carabiniere, tu devi morire, morire, morire, morire d'amore. Carabiniere, sbirro di merda, tu devi morire, morire, morire, morire d'amore. Carabiniere, tu devi morire, morire, morire, morire d'amore, d'amore. Morire, carabiniere, tu devi morire, morire, morire d'amore, morire, d'amore, d'amore. Morire, morire, morire, morire, morire. Carabiniere, tu devi morire, morire, morire, morire d'amore. Carabiniere, tu devi morire, morire, morire, morire d'amore. Carabiniere, tu devi morire, morire, morire, morire d'amore. Carabiniere, sbirro di merda, tu devi morire, morire, morire, morire d'amore. Carabiniere, tu devi morire, morire, morire, morire d'amore, d'amore. Morire, carabiniere, tu devi morire, morire, morire d'amore, morire, d'amore, d'amore. Morire, morire, morire, morire, morire. Nel 2015 il gruppo Pièce Mandœuvre è stato invitato a una discussione pubblica organizzata da studenti di Grenoble, a partire da alcune domande. Che cosa hanno gli smartphone di così speciale da monopolizzare la nostra attenzione? L'uso di internet avvicina le persone o le allontana? Quando l'utilizzo di nuove tecnologie diventa eccessivo e dannoso per la salute, perché i giovani sono i più colpiti da tutto questo? Sono passati alcuni anni da quando a una conferenza alla FNAC, la libreria, Didier Marsac, ricercatore al CEA, che è il commissariato per l'energia atomica francese, specializzato in micropile combustibile per cellulari, dichiarava: certamente queste pile costeranno più care rispetto a ricaricare un telefono da una presa elettrica, ma il nostro target sono gli adolescenti, immaturi, meno razionali, e pensiamo che saranno attratti dalla tecnologia senza fili. Individuato per il suo senso del commercio, questo ricercatore è stato successivamente reclutato dal gruppo Sogeti come direttore commerciale per le vendite di soluzioni di cybersicurezza. Perché i giovani sono i più colpiti? Perché i ricercatori vogliono le loro invenzioni, vogliono che le loro invenzioni fruttino. Gli industriali vogliono vendere sempre più gadget ai consumatori, i pubblicitari e gli addetti al marketing vi hanno identificato come i perfetti ingenui. Guardate come disprezzano i vostri 17 anni. Vi piace essere dei target nel loro mirino? Oltre alla vostra supposta immaturità, i venditori giocano sul fatto che voi non avete conosciuto che un mondo di chincaglieria elettronica. Ignorate come si possa vivere senza smartphone, computer, internet e altri dispositivi. Non avete l'età per poter paragonare la vita di prima, che è quella di meno di 20 anni fa, a quella di oggi. Soprattutto, come vivreste senza queste tecnologie? nel mondo di queste tecnologie. Sareste informati della prossima serata senza uno smartphone, senza Facebook? I vostri amici vi darebbero appuntamento senza WhatsApp? Osereste dire a scuola che non avete uno smartphone? O cercare un lavoro d'estate senza essere raggiungibili in ogni momento? Difficile, a meno di sopportare sarcasmi, incomprensioni, rifiuti. Sapete come noi che lo smartphone e internet ci sono imposti. Per vivere nell'e-mondo insieme ai suoi contemporanei, ognuno deve essere equipaggiato di interfacce, di connessione. Altrimenti è come nuotare sott'acqua senza bombola d'ossigeno. Ciò non è accaduto naturalmente. Voi non siete nativi digitali per via di un processo spontaneo, ma per volontà di Didier Marsac e dei suoi colleghi, ingegneri, ricercatori, industriali, commercianti. La generazione dei vostri genitori, che è cresciuta in un altro tipo di mondo, non ha mai avuto voce in capitolo su questa rivoluzione. Nessuno l'ha consultata per sapere se desiderasse partecipare in un mondo digitale o se questo nuovo mondo gli sembrasse più invidiabile di un altro. Al contrario, il tecnogratin, cioè l'insieme dei pezzi grossi della ricerca, dell'amministrazione, i cui legami determinano e sostengono lo sviluppo tecnologico, preoccupato di possibili opposizioni, ha messo in campo delle procedure per evitare ogni rifiuto. Lo smacco degli OGM gli aveva insegnato la prudenza. Non si trattava di rispondere ai bisogni reali, ma di trovare degli sbocchi redditizi per una tecnologia. Quando un concetto appare in rottura o avanti rispetto ai tempi, lanciamo degli esperimenti che consistono nell'immergere degli individui in un ambiente futuro simulato, così da realizzare dei test di utilizzo. I prodotti progettati appaiono in questo modo maggiormente sensati per gli utilizzatori. Così si presenta l'Ideas Laboratory del CEA Minatech. Si tratta di un complesso dedicato alle micro e nanotecnologie, situato a Grenoble. Un laboratorio in cui ricercatori, sociologi, designer, artisti si domandano quali prodotti tecnologici potrebbero essere accettabili per la popolazione. Esempio, degli occhiali a realtà aumentata? È un nostro urgente bisogno? No, certamente. Ma i manipolatori dell'Ideas Lab ce lo vogliono vendere e hanno i mezzi per farcelo accettare, per acclimatarci a mutazioni tecnologiche che non abbiamo richiesto. Secondo voi, che cosa cambia maggiormente le nostre vite? Il colore del partito politico, il potere o internet? Il mondo cambia perché abbiamo questo o quell'altro politico o perché l'informatica e le reti permettono di fare delle transazioni finanziarie globali alla velocità della luce? Avete capito che la tecnologia è politica fatta con altri mezzi, i più efficaci, in effetti. La politica in democrazia è affare di tutti, a ogni cittadino è richiesta la sua opinione negli affari collettivi. Non avendo mai deciso collettivamente di vivere in un mondo digitale, accelerato, iperconnesso, possiamo dire che stiamo vivendo sotto una tirannia tecnologica. Per voi questa vita è normale. Gli animali nati allo zoo ignorano che potrebbero correre nella savana e per questo non soffrono. Si pensa a essere allevati in cattività. E voi, di che cosa ignorate di soffrire? Vi si dice che le nuove tecnologie sono neutre, né buone né cattive, e che bisogna solamente evitare il cattivo utilizzo o il loro uso eccessivo. Questa menzogna non resiste a un mini questionario. 1. Chi decide che un utilizzo sia buono o cattivo? E per chi? In quali circostanze? 2. Si possono salvaguardare gli utilizzi buoni ed eliminare quelli cattivi? 3. Sei mai riusciti, una volta, in tutta la storia delle tecnologie, a eliminare i supposti cattivi utilizzi? Risposta. La tecnologia è sempre buono e cattivo utilizzo. La tecnologia è ambivalente, ora buona, ora cattiva. Pretendere di distinguere è voler separare le due facce di una stessa medaglia. Questa è una banalità che però va ribadita senza sosta, tanto la propaganda è insistente. E adesso, la vera questione. in cosa la tecnologia e tutti i suoi usi cambia il mondo, le nostre vite, i nostri corpi, la nostra relazione con lo spazio e il tempo, con gli altri, con noi stessi. Internet e lo smartphone accelerano la vita sociale, fino a rendere estenuanti le giornate di lavoro, essere raggiungibili in ogni momento, rispondere immediatamente, fare 10 cose contemporaneamente, eccetera. Sopprimendo ogni tempo morto in cui si poteva ancora riflettere, avere delle idee, pensare per sé. La continua sollecitazione dall'esterno. Ho ricevuto un messaggio? Perché non mi risponde? Cosa stanno facendo i miei amici? Che succede altrove? Ci priva del legame virtuale con la nostra interiorità. Da questa perdita derivano molte patologie, individuali e sociali. E depressione, sofferenza sul lavoro, sentimento di vuoto, dipendenze. Le nuove tecnologie ci separano da noi stessi, ma fanno anche da schermo nei confronti del mondo reale, sensibile. Ci impediscono di comprendere la realtà con i nostri sensi, le nostre capacità di analisi. Con il naso sul GPS o sulle mappe dello smartphone non sappiamo più leggere il paesaggio né orientarci nello spazio. La protesi elettronica ci mutila delle nostre facoltà. E che importa, direte voi? Io, appunto, ho la mia protesi tecnologica. Ma quando si guasta, quando avete finito la batteria, quando perdete il vostro aggeggio tecnologico, panico generale, siete del tutto dipendenti. E nemmeno lo specialista in tossicodipendenze potrà risolvere il problema. Ma ancor più grave, state perdendo il gusto dell'autonomia, il piacere naturale di cavarsela contando sulle proprie forze e l'aiuto degli amici. Per noi, studenti, non c'è maggior soddisfazione di essere capaci di pensare e agire da soli. I vostri genitori hanno cercato di incoraggiarvi a diventare individui autonomi, ma viviamo nell'epoca della nomofobia, paura incontrollata di rimanere scorressi dalla rete di telefonia mobile, l'epoca in cui vivere 6 mesi senza internet è una tale prodezza che merita un libro. La perdita di autonomia è irreparabile, visto che facilita il compito di manipolatori, venditori di gadget, imbroglioni politici, appuntando il nostro spirito critico, la nostra capacità di dire no. Le chiacchiere infestano internet, non solamente perché internet accelera la loro diffusione, ma perché, domandando tutto a Google, perdiamo l'abitudine di giudicare da soli. Ecco perché la scuola digitale è anche un crimine contro il pensiero. Abbiamo scritto dei libri per illustrare le distruzioni delle nuove tecnologie. Danni all'ambiente, alla salute, controllo generalizzato, perdita delle libertà. Vogliamo ora attirare la vostra attenzione su 2 punti in particolare. 1. Al di là di smartphone e internet, le nuove tecnologie occupano molti altri campi. Da microchip elettronici che invadono ogni centimetro del quotidiano e fanno del nostro ambiente un mondo macchina pilotabile a distanza, ai robot che ci rimpiazzano in quasi ogni aspetto delle nostre vite, passando per i primi cyborg, i primi organismi viventi artificiali. Un mondo nuovo si prepara senza di noi, il suo carattere principale è l'eliminazione dell'umano. Ci stiamo trasformando in oggetti comunicanti. Il mondo di domani sostituisce il governo degli individui con l'amministrazione delle cose. 2. La vostra generazione conoscerà gli effetti del cambiamento climatico causato dalle nuove tecnologie degli ultimi 100 anni, automobili, industrie, agricoltura industriale, eccetera. Ma non è questo il solo lascito delle generazioni precedenti. In ciascuna di esse ci sono stati dei refrattari che hanno rifiutato di lasciarvi queste ferite. Queste minoranze hanno perso, in generale, ed è il loro scacco e la potenza dei loro nemici che ha così disfatto questo mondo. Avevano contro di loro i forsennati dell'industrializzazione, come quel presidente di industrie chimiche che strillava: «Le generazioni future non ci daranno problemi, faranno come hanno fatto tutti». Voi non siete responsabili del mondo che vi abbiamo lasciato, ma siete responsabili di quello che lascerete. Ci si dice che bisogna vivere nel proprio tempo, cioè che non abbiamo scelta. Noi pensiamo che il coraggio, oggi come ieri, sia di vivere contro il proprio tempo. Persone della vostra età, nel maggio 68, avevano scritto «Spegnete la tele e scendete in strada». Noi vi diciamo Gettate i vostri schermi, scendete in strada, lasciate la realtà virtuale per la vita reale. Pièce main d'œuvre è un atelier di bricolage per la costruzione di uno spirito critico con base a Grenoble. È attivo dall'autunno del 2000 con diverse modalità d'azione: inchieste, manifestazioni, riunioni, libri, volantini, manifesti, interventi sui media e su internet e via così. Pièce main d'œuvre non è il nome di un collettivo, ma di individui politici. Rifiutiamo il pensiero politicamente corretto di gregarismo, che accorda valore solo a ciò che viene detto collettivamente, per ridurlo a conformismo, a pigrizia, a incapacità dell'anonimato del gruppo. Non sollecitiamo persone che facciano parte, vogliamo invece allearci ogni volta che sia possibile e necessario con altri che facciano per loro stessi. Come rifiutiamo di identificarci con gli anonimi, quelli che non hanno mai la parola, così rifiutiamo di metterci sul piano dello specialismo tecnico, cioè quello stratagemma del sistema per depoliticizzare le prese di decisione e spossessare i membri della società della loro responsabilità politica. E Dio voglia. Il rifiuto riguarda anche i controesperti, ovvero la trappola del sistema tecnico per infiltrare e ricondurre le opposizioni alla tirannia tecnologica. In breve, pensiamo che la tecnologia, non le sue derive, sia l'aspetto fondamentale dell'odierno capitalismo, dell'economia planetaria globalizzata. La tecnologia è la continuazione della guerra, cioè della politica, fatta con altri mezzi. Se la polizia è l'organizzazione razionale dell'ordine pubblico, della città, e la guerra è un atto di violenza per imporre la propria volontà dagli altri, questa razionalità e questa violenza si fondano e culminano nella tecnologia. La tecnologia è il fronte principale della guerra tra chi ha il potere e chi non lo ha, quello che comanda gli altri fronti. Ogni innovazione tecnologica comporta infatti a cascata un peggioramento dei rapporti di forza tra sfruttati e sfruttatori su tutti i livelli. Quanto alla nostra pratica, sappiamo che non si vince sempre con la forza numerica delle masse, ma anche che non si vince mai senza di loro e ancora meno contro di loro. Nessuno ad oggi ha trovato altri mezzi di trasformare le idee in forza materiale e la critica in atti che la convinzione delle larghe masse. Noi sosteniamo che le idee siano decisive, le idee hanno delle ali e delle conseguenze. Un'idea che vola di cervello in cervello diventa una forza d'azione irresistibile e trasforma i rapporti di forza. È per prima cosa una battaglia di idee che noi, senza potere, lanciamo al potere. Quindi dobbiamo essere innanzitutto produttori di idee, e per produrre idee facciamo leva per prima cosa sulla critica sociale, alimento e condizione primaria, sebbene insufficiente, di ogni azione. Thank you. E questo era appunto l'articolo tratto dalla rivista Malamente, che vi invito ad andare a ricercare di qui altre volte. Ci è capitato di leggere degli estratti appunto da questa rivista, fatta molto bene, rivista cartacea, tendo a sottolinearlo, fatta molto bene da un gruppo di compagni marchigiani. Quindi, che numero era, Baby? Allora, questo qua era il numero 16, e che era quello di dicembre di quest'anno, dicembre 2019. Bello, bello, mi è piaciuta molto questa lettura, per la semplicità con la quale esprime diversi concetti che sono veramente complessi per quanto mi riguarda. Cioè, il discorso tecnologico è veramente scivoloso. Sì, sì, sì. No, allora, la semplicità sì, cioè, sì e no, secondo me, perché era comunque la trascrizione di un intervento che è stato fatto a un incontro organizzato dai collettivi studenteschi. No, però è chiaro. Sì, sì, no, per cui, insomma, c'era la platea, quella lì, insomma, quella che ci può essere un'assemblea di istituto. Poi io personalmente poi non condivido tutte le cose che loro dicono, però è una bellissima analisi, un bellissimo modo, secondo me, di affrontare la questione. C'è tanti punti, come appunto quello del rapporto, della relazione con l'ambiente e con la società che determina ed è determinata dalla tecnologia, che insomma non è facile da rendere in questa maniera come lo rendono loro, e questo mi piace molto. Poi io personalmente, insomma, non sono proprio d'accordo che, insomma, cioè, danno una definizione un po', cioè, se devo fare una critica a loro, secondo me, che non capisco bene qual è la definizione di tecnologia. Cioè, è un po' strano. Io tendo a distinguere, per esempio. Per esempio, cioè, secondo me, in realtà esistono abbastanza. Cioè, è vero che uso cattivo, come dire, uso buono della tecnologia, per quanto vogliamo usare queste definizioni, siano due facce della stessa medaglia quando stiamo parlando dello strumento. Tuttavia c'è una profonda differenza tra quello che è una tecnologia come lo smartphone e la tecnologia che è come la roncola del contadino. Cioè, anche la roncola del contadino è un attrezzo tecnologico che può essere usato sia per ammazzare uno sia per fare legna in bosco. E tuttavia la storia, quell'oggetto ha inscritto in sé tutta un'altra storia. Cioè, quell'oggetto è stato determinato da una storia che sento molto più nostra, della società a cui appartengo, così come anche altre tecnologie, per esempio gli strumenti musicali che state suonando, cioè, insomma. Però vabbè, capisco che si possa stare un po' generali quando bisogna introdurre il concetto, e che comunque varia molto a seconda della cultura dentro la quale sei inserita. Cioè, leggevo su Bookchin, che lui diceva, vabbè, i greci antichi, cioè Aristotele pensava, cioè aveva una concezione della parola tecnica, del significato di tecnica completamente diversa da quella che possiamo avere noi oggi. Cioè era molto più completa, prendeva in considerazione l'ambiente circostante, produttori, consumatori, se così li vogliamo chiamare, aspetti, ricadute sociopolitiche, etiche soprattutto, e non era solamente lo strumento col quale tu realizzi questa cosa, cioè era anche quello, ma molto di più. Infatti, vabbè, quello che dici tu è molto giusto. Infatti, per un'analisi completa servirebbe guardare a molte più cose. Sì, sì, no, certo. Cioè, se si parla di, cioè, come dire, strumenti determinati da saperi, e quel sapere inteso come è la tecnè, cioè quella lì dei greci antichi. Esatto. E, cioè, bello, io voglio, cioè, una comunità, voglio vivere in un luogo dove vivono altre persone, giusto l'Italia a me, una comunità di persone che si dota anche di strumenti tecnici derivati da dei saperi, certo Dio, però che ce li determiniamo noi, cioè questa per me è la vera discriminante, che venga dalla nostra storia, che sia una storia della più possibile armonia, del più possibile un rapporto non di sopraffazione con l'ambiente che abbiamo attorno e tra di noi. E da questo tipo di rapporto della società nasceranno delle tecnologie molto più interessanti, intese come realizzazione poi in oggetto di saperi. Indubbiamente, indubbiamente. Va bene, ricordiamo a tutte e tutti l'entità, l'ascolto, di scriverci frittole@gattini.ninja. Tra l'altro vedo che ci è arrivata una mail, la leggeremo a breve, intanto possiamo mandare un pezzettino e niente, continuiamo tra 2 minuti. Ci state? Wombat. All we hear is Radio Wombat. Radio Wombat. Radio Wombat. Radio. Someone still loves you. Ebbene sì, ogni tanto ci ricordiamo pure di mandare degli spottini. C'è Palmiro che parte in quarta. Che spettacolo. E siete sempre su Radio Wombat, se non ve ne foste accorte. Ed è venerdì 17 luglio 2020. Ebbene sì. E volevo ricordarlo perché ogni tanto partono le repliche, ogni tanto... Boh, non si sa, è sempre buona norma. Vi ricordo che ci potete scrivere a frittole@gattini.ninja. E ci ha scritto... la Nati, un gran messaggio d'amore. Un gran saluto a Nati. Sì, ti loviamo tantissimo. Grazie a te, davvero... Nati ci fa i complimenti, ci dice che sta passando un bel momento, grazie a noi, anche a noi. E quindi grazie anche a te. Speriamo di vederti molto, molto presto. Prestissimo! E non so se Beppi è pronto con la voce lubrificata, l'ugola lubrificata... A proposito di buone e cattive tecnologie. Sì. Dunque, allora, ma mi sento un po' bassino, no? È normale? Va bene così? Sì, no, dai, va bene. Prima parlavi allora... più forte, tu ho abbassato per quello. Ah sì, eh? Hai fatto bene, brava regia. Allora, il prossimo spunto di riflessione è una lettura da Guerra di Rete. Guerra di Rete è una newsletter e trovatela, va bene, a cura di Carola Frediani, che è una giornalista indipendente, scrive su Valigia Blu e anche altrove, credo, non lo so. È incredibile per gli avidi di paranoia. Sì, la newsletter è bellissima, questa newsletter qua, Guerra di Rete appunto si chiama, la dedica tutta quanta a notizie dal cybermondo in generale e parla un casino di tecnologie e del controllo. Sì, peccato che sei andata in vacanza, Carola, ci mancherai, però... Ci manchi già, però vabbè, invito tutte le entità all'ascolto di andarsela a leggere perché veramente sono degli articoli densissimi, a mio avviso molto molto interessanti. Sì, leggetela e fatela leggere, non è necessario, cioè potete anche iscrivervi e riceverla sulla vostra casella email, ma non è necessario perché la newsletter è anche in forma di un blog tipo che potete consultare tranquillamente. Cercate Guerra di Rete, Carola Frediani, lo trovate? E così potreste deliziarvi con le analisi della nostra amica Carola. Di cosa ci parli, Beppe? Cosa ci leggi? Allora, avevo pensato appunto di leggere questo articolo qua, che è di un mesetto fa. E tuttavia mi interessava molto il tema, cioè il riconoscimento facciale. I software delle telecamere a riconoscimento facciale pare che diventino sempre più potenti, sempre più indispensabili, sempre più pervasivi, saranno ovunque. E sembra che, oh mio Dio, non potremmo più girare per strada e praticamente se ci inquadra una telecamera facciale è come se uno sbirro ci avesse chiesto i documenti, perché arriva tutto... Insomma, cioè, dovevo andare in giro sempre col passamontagna per la gente un po' paranoica come me, che non ho voglia che mi riconoscano ovunque vado. E purtroppo la mascherina non serve più di tanto, cioè sì, infatti no. Travisa poco. Purtroppo sì. Allora, però appunto, quindi mi ha molto interessato questo articolo perché parla proprio del riconoscimento facciale e di come sia in realtà un sistema un po' in crisi. Fare questa roba è molto complicato sotto vari aspetti. Cioè, fortunatamente è una tecnologia ancora un po'... cioè, meno male, una tecnologia ancora un po' sfigata. In realtà non è così figa come la descrivono, e ha delle potenzialità però che sono devastanti. E Corolla fa un po' il punto su questa roba, a partire appunto dalla sua prima crisi. Una delle conseguenze dell'uccisione di George Floyd a Minneapolis è stata anche di costringere all'angolo le tecnologie di riconoscimento facciale. Il movimento di protesta globale, successivo alla sua morte, ha infatti messo alcune aziende tech di fronte alle proprie contraddizioni, nel momento in cui esprimevano solidarietà col movimento, ma nel contempo vendevano servizi e prodotti utilizzati dalle forze dell'ordine per sorvegliare e reprimere quegli stessi manifestanti. L'onda d'urto di tale protesta antirazzista è stata tale da mandare in cortocircuito il già contestato riconoscimento facciale, riuscendo dove altri avevano fallito, in una dinamica decisamente interessante e che meriterebbe di essere approfondita, in cui sono i movimenti sociali, addirittura di piazza, a incidere sullo sviluppo e l'adozione di tecnologie. E non è la tecnologia che abilita il movimento sociale, uno schema interpretativo forse più battuto fino ad oggi e che a volte ha peccato di soluzionismo tecnologico in versione radical progressista. Le aziende che hanno fatto marcia indietro. Ha iniziato IBM, che una settimana fa, in una lettera al congresso USA, ha comunicato di uscire dal business del generico riconoscimento facciale e di opporsi all'utilizzo di tale tecnologia per sorveglianza di massa e profilazione razziale. Secondo IBM, la decisione era in cantiere da mesi, anche se questa sarebbe la prima uscita pubblica. La lettera chiedeva che le nuove leggi sull'uso responsabile di questa tecnologia e contro gli abusi alla polizia. Poi è stato il turno di Amazon, anche se la sua reazione è più ridotta e per questo criticata da alcuni commentatori. Ha infatti detto di aver istituito una moratoria di un anno sull'uso da parte della polizia di Recognition, il suo software di riconoscimento facciale basato su cloud. Permette ai clienti di abbinare foto simili e comprare facce. I dipartimenti di polizia possono caricare sui server Amazon le foto di precedenti archivi e poi cercare di identificare qualcuno ripreso per strada, ad esempio da una videocamera di sorveglianza. Il software fornisce un punteggio di somiglianza che indica quanto sia probabile l'abbinamento. Lanciato nel 2016, non è chiaro quanti dipartimenti di polizia negli USA o altrove ne facciano uso. La moratoria servirebbe a dare il tempo al Congresso per regolamentare un uso più etico del riconoscimento facciale anche da parte delle autorità. E poi è stata la volta di Microsoft. Il suo presidente, Brad Smith, ha comunicato la decisione di non vendere tecnologie di riconoscimento facciale ai dipartimenti di polizia americana finché non ci sarà una legge che le regolamenti e che tenga conto dei diritti umani. Certo, per molte di queste aziende si tratta di attendere un quadro regolatorio e sociale più favorevole e tranquillo per riprendere il business. E non mancano le critiche per il fatto che siano menzionati solo gli Stati Uniti. Fra gli altri, Garry Kasparov, che si chiede se queste policy si applicheranno a Russia, Cina o Turchia, per esempio. Ma soprattutto per molti attivisti, l'obiettivo è arrivare alla messa al bando. Lo chiede fra gli altri Amnesty International, un divieto sull'uso, sviluppo, produzione, vendita, esportazione di tecnologie di riconoscimento facciale con lo scopo di sorveglianza di massa, e per altre agenzie statali. Ma l'Organizzazione per i diritti umani sottolinea che è un aspetto importante, sottolinea anche un aspetto importante che vorrei evidenziare. Anche se queste tecnologie sono spesso accusate di essere non accurate, parziali, discriminatorie, e anche se il loro utilizzo rischia di aggravare attuali discriminazioni, ad esempio proprio quelle razziali, non significa che una loro eventuale maggiore accuratezza risolva la questione. perché l'impatto di queste tecnologie è sul diritto alla manifestazione pacifica, compreso anche il relativo anonimato di partecipare a una manifestazione pubblica in cui normalmente a tutti i partecipanti non viene chiesta la carta d'identità e il diritto di privacy. Queste tecnologie permettono il monitoraggio, raccolta, conservazione, analisi e utilizzo di altri dati personali sensibili, dati biometrici, di massa senza un ragionevole individuato sospetto di reato, e questo altro non è che sorveglianza di massa indiscriminata, dice Amnesty. Sì, deve essere messo al bando, lo dice anche una ricercatrice del comitato su AI ed etica di Google. Intanto però, il vuoto lasciato dai colossi tech, che stanno facendo un passo indietro, viene riempito da altre aziende. Clearview, AI, NEC e altre hanno detto che continueranno a rifornire il mercato delle forze dell'ordine. Nel mentre galoppa il settore privato e si moltiplicano le offerte commerciali. OneZero descrive ad esempio PMIS, un sito e uno strumento di riconoscimento facciale polacco che ha una versione gratuita e una premium. Il sito permette di caricare la foto di qualcuno e trovare online immagini di quella persona da molteplici siti. Una versione ridotta è per i consumatori del più noto servizio dell'americana Clearview AI, che vende i propri servizi a polizie e altre autorità e di cui ho scritto ampiamente. PMIS presenta la propria offerta addirittura come uno strumento di privacy. Guarda dove stanno le tue immagini, ma in realtà chiunque può fare ricerche su chiunque e non solo su di sé. Ho provato a fare da cavia caricando alcune mie foto sul tool per vedere che usciva. Il sito ha tirato fuori e mostrato, almeno in versione free, un po' di mie foto sparse per la rete. Non tutte però, solo quelle che a occhio erano più simili al modello, cioè alla specifica foto, inquadratura, eccetera, che avevo caricato. Tuttavia ho estratto alcune foto, in genere foto di eventi, in cui magari la mia presenza è ai margini o sullo sfondo, di cui non avevo cognizione. Ricordo che l'uso di simili tecnologie è molto problematico, se non altro perché è un assist a possibili forme di stalking. Nel 2016 una società russa aveva lanciato il servizio Find Face, descritto inizialmente come un modo per trovare donne di proprio gradimento. Se la videocamera è nascosta. Invece gli Stati Uniti, gli spettatori di una gara annuale di college di football sono stati sottoposti a loro insaputa a un sistema di riconoscimento facciale, abilmente camuffato da tabelloni pubblicitari. Quattro videocamere nascoste sotto queste insegne digitali catturavano vari dati dei partecipanti, incluso quanto tempo guardavano le pubblicità, il loro genere, età e un'analisi del viso corpo per identificare se avessero armi o risultassero in una lista di sospetti. L'azienda che fornisce il servizio, Visibility, sostiene che le insegne digitali con la pubblicità siano un modo per far guardare i clienti direttamente in camera, rendendo più accurata la loro potenziale identificazione. Su questa newsletter avevo raccontato progetti e fughe in avanti sul riconoscimento facciale in Francia, con tentativi di introdurlo in alcune scuole in via sperimentale e in alcune manifestazioni pubbliche. All'epoca tra i protagonisti, oltre all'americana Cisco, c'era la società monegasca Confidencia, monegasca sarebbe del Principato di Monaco, diretta da Jean-Philippe Claret, fondatore dell'associazione World of Blockchain Monaco, con uffici a Parigi, Madrid e Tel Aviv. Oggi si torna a parlare di questo settore in Francia con Alexandre Benalla, l'ex bodyguard di Emmanuel Macron, diventato la spalla dell'ex deputato macroniano Jacques Sonforget. Lo definiva caduto in disgrazia dopo che un video lo ritraeva vestito da poliziotto mentre picchiava un manifestante. Benalla, nel mezzo della pandemia, ha messo un piede nel mercato del riconoscimento facciale, un settore in rapida espansione in Francia, soprattutto per le sue applicazioni di sicurezza, scrive Mediapart. Qualche tempo fa, Benalla ha fondato Comia, società di consulenza e cybersicurezza, proiettata in Africa, ma nei giorni scorsi Mediapart ha scritto di possibili trattative tra Benalla, un'altra società di cybersicurezza, CS Group, e la startup 22, specializzata in computer vision, AI e soluzioni di analisi video in tempo reale per la sicurezza, il commercio e l'industria. Il comune di Como ha già fatto due appalti per dotarsi di sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale. Ma su che base? Insomma, cosa sappiamo delle videocamere usate dalla città lombarda? Hanno utilizzato un sistema di riconoscimento facciale? Come? Fino a quando? Weird va in profondità sulla vicenda. In sostanza, in questo momento, il comune di Como non potrebbe utilizzare il riconoscimento facciale perché non rispetta la legge. Secondo il provvedimento del garante, le immagini dei volti di chiunque passi in quel parco non possono essere utilizzate. Da quanto appreso da Wired, però, solo ai primi di aprile il comune di Como avrebbe scritto al garante, comunicando la disabilitazione della funzione sperimentale di riconoscimento facciale utilizzata nel parco Tocamaci. Se le videocamere attivate in via Leonini e in via Anziani non sono attive, quelle installate di fronte alla stazione avrebbero svolto attività di riconoscimento facciale per mesi. Ne è nata un'interrogazione parlamentare. Dopo tutta questa lettura non poteva mancare Anonymous Camera, l'app che usa l'AI per anonimizzare velocemente foto e video, di fatto pixelando, sfocando i visi, ma anche togliendo metadati, eccetera. E con quest'ultimo appunto invito a utilizzare un'app per la cancellazione dei metadati, per la cancellazione dei visi da utilizzare ogni qualvolta postiamo sui social o comunque facciamo venire in contatto con la rete delle foto che abbiamo fatto di contesti che possono essere sensibili, come per esempio un corteo, ma perché no anche una festa illegale. E o anche non so se abbiamo a che fare, beh insomma in qualsiasi caso abbiamo voglia di proteggere le persone che magari non hanno piacere che il loro volto, che il loro luogo, se ci troviamo per esempio all'interno di un posto occupato o che so io in qualsiasi altro tipo di situazione, non sia riconoscibile, magari non sia neanche tracciabile e da una da un algoritmo di ricerca basato sul riconoscimento facciale. Ecco, Anonymous Camera è solo una delle tante app che possiamo usare. Sì, diciamo che se fate qualcosa di illegale forse è meglio non fare proprio foto in principio, o non portarsi dietro il cellulare. Cosa, Albus? Niente furbofono. Sì, sì, no, questo sarebbe di base, ma tanto c'è, cioè, nel senso... Come coniato il neologismo per il telefono. Furbofono. Siamo simpatici stasera. E va bene, che dire, volete uno stacchetto? Ci riposiamo i diti? Niente, niente. No, Palmiere è instancabile. Palmiere parte in quarta sempre. No, no, no, potete... volevo non lasciare... I vuoti radiofonici. Sì, sì. Tanto mettete pure lo stacchetto. Volevo un attimo rompervi il cazzo con un do minore. Do minore. anche le foche bevono Radio Wombat. L'automazione del quotidiano. Giuseppe correva nel parco. Si sa che fa bene correre nel parco. Così si diceva. Soprattutto da quando era diventata un'esperienza unica, su misura, personalizzata per ogni utente smaliziato come Giuseppe. Il suo smartwatch ultima generazione era così furbo che i sensori di cui era dotato erano in grado di rilevare e misurare non solo la sua frequenza cardiaca e respiratoria, ma anche, grazie a un igrometro, il suo stato di idratazione. Registrava questo prezioso dato, estratto dal sudore di Giuseppe, e lo confrontava in tempo reale con quello di altri runner. C'era un'apposita app con la quale era possibile salire anche parecchio in classifica, con relativamente poco sforzo, e ottenere un badge per accedere al livello pro. Per poter entrare nel gioco della misurazione reciproca, ovviamente l'orologio furbo era connesso a internet, non direttamente, ma tramite lo smartphone che alloggiava nella sua fascia dorsale aerodinamica. Le telecamere lungo il percorso, oltre a sorvegliare il parco per la sua sicurezza, se ne sentivano di tutti i colori, si preoccupavano di immortalare le sue falcate e di postare sui profili social le pose migliori, accuratamente selezionate proprio dal suo telefono, il dispositivo più furbo di tutti. Lui, il telefono, era in perenne attività. Giuseppe lo considerava ben più della sua rubrica o della sua segreteria. Era un consigliere, un amico, un secondo cervello ben più prestante del suo, a volte. Di certo più preciso. Controllava gli investimenti, inviava in auricolare le ultime notizie personalizzate, monitorava le telecamere a casa e in ufficio, gettava un occhio agli account social di suo figlio e dei loro amici e gli notificava movimenti sospetti, frequentazioni non certificate dal database, amici e conoscenti. Con i ragazzini è così, non si sa mai che cosa combinano. Perciò liberi sì, senz'altro, ma meglio tenerli d'occhio. Così pensava Giuseppe. Naturalmente lo smartphone controllava anche i profili dei suoi amici e colleghi, a cui faceva filtrare contenuti migliori, meglio di come li avrebbe selezionati lui stesso. Si ricordava di tutti i compleanni, di tutti gli anniversari, di tutte le ricorrenze, anche di quelle che riguardavano i concorrenti, così non mancava di andare a stuzzicare o rinfocolare anche vecchie rivalità. Un post sulle vacanze da sogno che lo aspettavano, un altro su quel contratto strappato coi poveracci della concorrenza. Niente di crudele, ma era bene mantenere le cose in chiaro. E poi si sa, tanti nemici, tanto onore. Ma lo smartphone non era solo social, era anche un vero e proprio aiutante domestico, anzi, l'organizzatore di tutto. Aggiornava i backup dei suoi vari dispositivi, pagava le bollette con una regolarità che solo i cervelli elettronici possono avere. Ordinava al robot aspirapolvere di dare una passata in cucina e in salotto. E intanto che c'era, per non rimanere con i circuiti inattivi, si connetteva alla lavatrice IoT e faceva partire un ciclo di lavaggio proprio nel momento perfetto, quando il sole era alto e la produzione dei pannelli fotovoltaici sul tetto di casa era ottimale, e regolava tutti gli altri consumi, anche i consumi del frigorifero. Attenzione, ti stai disidratando, notificò lo smartwatch al polso. Il telefono non perse tempo, richiamò l'ultimo inventario del frigorifero, ma a quanto pare c'era disponibile solo una mezza lattina della sua bevanda preferita. Inoltre Giuseppe aveva espresso il desiderio nella wishlist di uno dei portali acquisiti a cui era abbonato di provare l'ultima Fuffo Cola Special, con i livelli di sali minerali personalizzati in base al profilo social. Fortunatamente il frigorifero era un nuovo modello IoT, Internet of Things, connesso direttamente al portale in questione. Senza perdere di tempo a consultarlo, acquistò una fuffa cola personalizzata usando i suoi criptocrediti, si fece passare le sue coordinate GPS dal telefono e le comunicò al portale. Qualche secondo più tardi, una volta effettuata la transizione e i controlli dovuti, partì il drone inviato dal magazzino del portale più vicino a lui. Lo agganciò sul percorso nel giro di qualche minuto e sganciò la lattina, in plastica infrangibile. L'auricolare intonò un «in arrivo». Giuseppe si fermò un secondo, alzò lo sguardo, giusto in tempo per afferrare la lattina. Fenomenale! Ah, che meraviglia l'internet degli oggetti! A casa, l'acqua della doccia era alla temperatura perfetta. Si regolava sui parametri dello storico delle sue docce, che il telefono aggiornava continuamente in base alla dieta indicata dal suo personal trainer e validata dal portale salute e dalla sua assicurazione. Serviva bene a qualcosa profilare tutto in ogni momento. Ogni dato estratto dal soggetto veniva utilizzato per massimizzare l'esperienza di consumo. Altro che perdere tempo a valutare, soppesare e decidere. Se sudi, hai sete e se vuoi la fuffa cola ora, fine della faccenda. Improvvisamente un pensiero balenò nella mente di Giuseppe. Era il caso di buttarla, quella mezza lattina che gli ingombrava solo il frigo. Gli pareva di ricordare una notifica per cui con il frigo, senza concorrenti, gli avrebbero regalato una fuffa cola in più al prossimo acquisto. Attenzione, il credito non è sufficiente per aprire. Prego selezionare un video. Potrai saltare gli annunci pubblicitari fra 9, 8, 7. Ma che stava succedendo? Doveva essere un equivoco. Il frigorifero non voleva aprirsi perché sosteneva che Giuseppe non aveva abbastanza crediti. D'altra parte, il frigorifero non era suo, come gran parte dell'arredamento intelligente di casa era un terminale senziente del portale acquisti, che glielo aveva piazzato in casa senza obbligo d'acquisti in cambio di un abbonamento ridicolo. Tra l'altro, il tecnico diceva che si preoccupava da solo anche degli aggiornamenti firmware e di tutto il resto, quindi era sicuro al 100% da eventuali intrusioni. Sì, però a quanto pare non voleva aprirsi e ora Giuseppe doveva assorbirsi un video sullo schermo del suo frigorifero che non era neanche in 4 kilobyte. Un video preso chissà dove, tutto per poter accumulare qualche spicciolo e convincerlo ad aprirsi. Ma già, il frigo non era suo, quindi lo pagava o aspettava e pagava per guardandosi il video. La cosa lo irritò parecchio, meglio andare a farsi un giro. Attenzione, il credito non è sufficiente per aprire. Prego selezionare un video. Potrai saltare gli annunci pubblicitari tra 9, 8, 7. Dannazione, anche lo schermo incorporato alla porta di casa era deciso ad infastidirlo. D'altra parte erano tutti oggetti intelligenti, connessi fra loro, e se non aveva credito, forse era meglio che si guardasse quei maledetti video. Questo era un estratto da Internet Mon Amour, come dicevo prima, un estratto dalla prima giornata di questo libro, che appunto è diviso in 5 giornate che trattano di vari temi diversi, tra cui sono vari sottocapitoli. E questo è quanto. Poi ci sarebbe la morale della favola. Va bene, vi leggo. Dai. Immagino che no, ma come? Le vostre conclusioni, no? E la voglio sapere. Volete capire? Ti fa proprio schifo? Ma no. Dai, ve la leggo. Ma che riassunta. Riassunta, non saprei riassumervela, non l'ho letta, cioè non me la ricordo. Dai, allora leggila. Va bene. Criceti sulla ruota del consumo? L'automazione è una gran bella invenzione. Consente di risparmiare tempo ed energie altrimenti impiegate per compiti ripetitivi e noiosi. Le tecnologie per realizzare l'automazione del quotidiano avevano rapidamente modificato il mondo in cui le persone, no, il modo in cui le persone si relazionavano fra loro e gli oggetti attorno a loro, con l'obiettivo dichiarato di creare sistemi perfettamente coordinati e integrati tra loro. Il primo passo era stata la profilazione, seguito a ruota dalle tecniche di gamificazione per aumentare sempre più la rapidità dell'interazione e renderle fluide. Si parlava infatti di mercato liquido, un mercato perfetto, senza attriti, sogno del libertarianesimo, in cui ogni interazione veniva misurata, quantificata, valutata e quindi era passibile di essere comprata o venduta. L'internet delle cose era fatta di apparecchi per l'automazione delle case private e degli edifici pubblici, la cosiddetta domotica, di circuiti RFID a radiofrequenze incorporati nei vestiti che comunicavano fra loro, capaci di minimizzare i costi di inventario, stoccaggio, logistica, perché era possibile sapere in ogni momento dove si trovava un oggetto dotato di etichetta RFID. Era fatta di droni per la consegna degli acquisti e di sensori per il fitness, tutte macchine che svolgevano il loro programma. Nessuna ribellione delle macchine, anzi, i non umani eseguivano scrupolosamente i comandi impartiti. Niente di nuovo rispetto ai sistemi precedenti, ma più veloce e meno controllabile, con imprevedibili effetti. Un errore nel codice di una telecamera IoT poteva ripercuotersi sull'intera rete. La parola dell'hacker. Se avete voglia di farvi un giro nei meandri dell'internet delle cose, un buon punto di partenza è Shodan, un motore di ricerca che permette di cercare i bug dei dispositivi intelligenti, ma anche semplicemente di sapere chi sta usando il vostro dispositivo intelligente nel mondo e come. E qua rimanda appunto a Shodan.io. E non ho detto che questo libro, Internet Mon Amour, è acquistabile in copia cartacea, ma è in realtà totalmente leggibile online su il sito Circex. Non è scaricabile in PDF, perché il PDF non ci piace. Brutto. Esatto. Però appunto, se andate sul sito, potete benissimo leggervi questo libro. Niente, avrei voluto magari scegliere un estratto più calzante che c'entrasse di più con le letture di Bepi, ma visto che ho scarsa memoria e comunque non ho finito di leggere il libro, ho scelto questo simpatico racconto. No, cioè vuol dire a me, no scusate, non si dice a me, scusatemi, volevo dire mi sembra che sia molto, sembra che invece calzi molto quello che hai letto, cioè senso, dai. Certo, ma tutto il libro calza molto con tutto quello che hai detto. Speravo di trovare qualcosa di più su appunto, vabbè no, ci sta, la vendita dei dati personali, effettivamente la profilazione c'entra molto. Però sì, probabilmente c'era qualcosa anche sul riconoscimento facciale. Si parla appunto anche di sfera privata, di come influiscono queste tecnologie nella sfera privata. Sì, guarda, cioè a me vengono in mente due cose. Allora, la prima è che il racconto è bello, è una narrazione di questo. Le cose non sono così, secondo me difficilmente diventeranno come sono così, come nel racconto, a breve. Sì. Perché comunque la tecnologia dell'internet delle cose, cioè, ha i suoi difetti. No, cioè è una cosa talmente complicata che non funziona al momento, ma proprio non. No. Non riescono a farla stare in piedi perché è troppo complessa. Poi mancano le infrastrutture, perché se volessimo fare l'internet delle cose, mi immagino, non so, nella provincia dove abito, non riesco neanche a navigare normalmente, figuriamoci se posso affidare, cioè, dal funzionamento di varie degli elettrodomestici, di varie cose della mia casa, a questa connessione che insomma fa un po' pena. Ma infatti cioè nel senso non... No, al di là poi anche del traffico internet che è ingestibile da parte delle importantissime infrastrutture, poi secondo me manca anche la temperatura nell'atmosfera per poter raffreddare tutti i macchinari che in Groenlandia e in Islanda vengono raffreddati costantemente, che appunto sono una delle ormai le principali fonti di inquinamento. Cioè anche solo cercare queste criptomonete, no? Economia via web inquina un casino, inquina tantissimo. Sì. Scusa Beppe per questa interruzione. No, ma è vero, perché comunque poi il fine è anche del dell'internet delle cose, che fa parte poi di quello che mi ha definito adesso il capitalismo della sorveglianza, no? È l'accumulazione dei dati. Di tutti i dati, cioè dell'interazione. Il nuovo bene da investire e da accumulare. Cioè, questi dati, però, allora, cioè, innanzitutto devi avere la potenza di calcolo per gestirli, che non è scontato. Gestirli a un livello interessante. E poi anche devi avere. Dicevi anche te, Palmi, cioè, questi dati finiscono da qualche parte. Cioè, sono fisicamente. Sì. Dei server, ma non solo, anche degli spazi di archiviazione in dei capannoni da qualche parte. Cioè, no, dici bene, perché secondo me, comunque, dalle persone. Internet, si parla di internet delle cose, ma internet secondo me è percepito come una non cosa, come una cosa astratta che ti permette di raggiungere determinati risultati, determinate cose. Mentre in realtà internet, cioè quando noi diciamo internet, a cosa pensiamo realmente? Io no. Anche reverendo, anche perché effettivamente quello, diciamo volgarmente, reverendo mi rappresentava, diciamo, quello che è il fulcro e l'origine della vita, come potete immaginare, per non essere volgari. Però aprendo una piccola parentesi, quella è una delle maggior è uno del maggior commercio che muove l'economia di internet. Però secondo me le persone, comunque, tornando al nostro discorso, si scordano che, come diceva Beppi, scusa se poi ti ho interrotto, è fisico, è sostenuto da dei cavi, da rame, hardware, hard disk, computer, fibra ottica, turbine di raffreddamento. Sì, certo. Cioè la poesia del cloud, no, per esempio. Oppure il fatto che con internet possiamo fare tutto quello che vogliamo, raggiungere tutti i nostri amici, parlare, cioè non è altro che una fuffonata commerciale. In realtà le cose sono molto più complesse di così. Fuffacola. Sono molto peggio, ovviamente. Cioè, questa immagine qua dell'internet come e della rete come capace di cose magiche, per cui è una magia che funziona e non c'è, sono solo vantaggi, ovviamente è solo una trovata, è una commerciale, vigliata. Le persone che devono venderle queste cose. Tra l'altro avevo letto di questo aneddoto curioso che riportava che praticamente il peso di tutte le informazioni contenute nell'internet, ma proprio a livello mondiale, arrivava tipo sui 2 grammi. Tipo tutti gli elettroni che viaggiano nella corrente di internet sono 2 grammi. Poi naturalmente serve molta più massa per far funzionare, far girare queste cose. Perché comunque anche tutto questo tipo di economia, questo nuovo commercio, come diceva Beppi Manin, questa nuova economia dei dati. Perché parlandoci chiaro, nuova un cazzo. Se noi si pensa, no è vero, nuovo un cazzo, è vero, c'ha ragione reverendo. Se noi si pensano, ma questa gente che cazzo gliene frega di fare, cioè di riconoscere la mia faccia di culo sconosciuta in mezzo alla merda di nulla. È solamente una manovra economica, perché qualcuno di qualcosa dovrà pur campare e quindi... Parlavamo di controllo e di dominio, insomma. Parlano di controllo e di topa anche, mi pare, comunque. Sì, però siamo troppi uomini in una stanza per parlare di questa cosa senza essere sessisti, purtroppo. Sono d'accordo, io volevo solo cazzeggiare, scusate, ritorniamo seri un attimo. E vorrei invitare i nerd, le nerd all'ascolto a dirci qualcosa. E sì, potete chiamarci, mettiamoci in contatto, perché mi sa che stiamo, cioè, alcune cose giuste le stiamo dicendo, però vorrei anche essere smentito, vorrei che le cose che stiamo dicendo fossero confermate o contraddette da esperti, esperte. Guarda, allora, io pur non essendo esperto avevo un altro aneddoto riguardo all'internet delle cose. Vai, bello, bello. Che però appunto mi ha raccontato un esperto, adesso poi potrei aver travisato le parole o dimenticare, sbagliare qualcos'altro, però... C'era questo caro amico, Paluca, che tra l'altro saluto anche se non, sicuramente non ci starà ascoltando, che mi narrava appunto del 5G, che appunto è queste nuove antenne di nuova generazione che appunto dovrebbero poi servire cioè sarebbero l'infrastruttura dell'internet delle cose, no? Che dovrebbero consentire di far viaggiare un'immensa quantità di dati in maniera molto più veloce. E questo sarebbe appunto uno degli effetti, diciamo, positivi della cosa. Ma questo amico appunto mi spiegava che in realtà le onde 5G sono, diciamo, non adatte in realtà a questo scopo, perché sono onde, adesso scusate, penso ad alta frequenza, molto alta. E in pratica queste onde rimbalzano molto, cioè sono proprio bloccate dalle superfici acquose, dall'acqua in generale, quindi non si trasmettono a lunga distanza, ad esempio come le onde radio, che invece a bassa frequenza viaggiano per grandissime distanze senza essere inficiate da ostacoli lungo il loro percorso. Quindi appunto questa nuova tecnologia 5G avrebbe bisogno di una grandissima quantità di queste nuove antenne, che appunto dovrebbero ricoprire capillarmente tutti i posti dove dovrebbe funzionare questa nuova tecnologia, che appunto è, come diceva Betty, è abbastanza impensabile. Ad esempio venivano narrate situazioni in cui per montare delle antenne 5G in modo che si parlassero tra di loro dovevano essere abbattuti degli alberi perché venivano bloccate le onde, e quindi in realtà la ricezione tra le due antenne era scarsissima. Quindi proprio è una tecnologia nemica anche della natura, degli alberi, di ciò che ci dà la vita. Sì, su tutto quello che è il 5G, su quello che ci sarebbe da farne una puntata dedicata. Forse qualcun altro l'ha fatto meglio di noi. Sicuramente. Scopritelo. Magari sicuro. Gli amici di Stacca Tutto. Stacca Tacca forse l'hanno fatto, non lo so. Però sì, sarebbe interessante. Io quello che mi sento di dire su questo tema qua, sbilanciare tra le tantissime cose che ho letto da fonti più autorevoli, meno autorevoli, poi lì è un grande bordello, è che sicuramente l'infrastruttura strategica, considerata strategica, e poi che è un'infrastruttura che all'utente finale non dovrebbe dare poi chissà quali vantaggi. L'infrastruttura è una potenza, un potenziamento appunto della possibilità di comunicazione, che serve soprattutto agli amministratori dei territori, cioè a chi deve, non so, gestire un porto commerciale con i camion che si guidano da soli al suo interno per lo smistamento delle merci, cioè queste robe qua. Non certo all'utente finale, il cui vantaggio cos'è? Che può scaricare un video in un secondo invece che 5 secondi, boh, cioè insomma un po' vale. Ma il tempo è denaro. Sì, ma è un'infrastruttura dei padroni, cioè, per me è già questo. Io non ho bisogno di scendere i tecnicismi, cioè, nel senso, quando ho capito questa cosa vado abbastanza sicuro sul pormi da una parte. Ciao. Poi guarda, perché poi è un tema un po' delicato, per parlare bisognerebbe essere un po' informati, però per esserne contro basta capire poche cose base. Sono d'accordo anch'io. Cosa ne pensate voi? Ma io quando prendono fuoco le cose in genere sono contento, sì. Però non ho veramente un'opinione, non posso... Non me la son fatta ancora, è un argomento estremamente scivoloso e... Sospendo il giudizio. No, anche se comunque il discorso per me resta molto più ampio sulla tecnologia, ecco, su soprattutto della conoscenza che abbiamo di questa cosa, di queste cose che abbiamo in tasca, che usiamo tutti i giorni, che diamo veramente per scontate e che non sappiamo neanche come funzionano e non le abbiamo scritte noi, non abbiamo il controllo di molte delle tecnologie che utilizziamo, intendo digitali, e questo mi dà un po' fastidio. Sì, che non abbiamo neanche scelto, cioè nel senso che ci siamo ritrovati immersi in un contesto che ormai le richiede e sembra che siano scontate, sembra che siano così, come anche rifletteva appunto P.S. Mandoeuvre nel pezzo che abbiamo letto all'inizio. Assolutamente. Allora, che dite? Leggiamo un ultimo sì. pezzo. E magari, non so, vogliamo fare un altro po' di musichetta dal vivo, amici? Io manderei l'ultimo pezzo per lubrificarci le ugole e poi leggere l'ultima parte. Che... Yeah. E questo era Mercandé de The Sun Rises in the East, Nye Dudan Doar. Me lo puoi ripetere, per favore? Mercandé de The Sun Rises in the East, Nye Dudan Doar. YouTube map3free.org. Grazie, grazie, Beppe. Ok, quindi. E quindi andiamo con l'ultima lettura. Contemporaneamente proveremo a musicare Pepi, la voce sua dente, anche se vorrei salutare la Modesta che ogni tanto ci raggiunge. Oddio, mi è arrivato un microfono in faccia per... Sì, è l'emozione, ciao. È l'emozione del momento. Ciao Modesta. Tempo che non venivo qua effettivamente. Hai visto? Ci manca a dirvi che quasi era di cena e voglio portarvi tutti fuori a cena. Dovresti. Un po' troppo... Che non bello. Posso mantenere. Vabbè. Storione, offri te. Magari sparisco finché finisce la puntata. No, aspetta, abbiamo subito finito. 21-1, ciao Wombat, è stato bello. Wow. Mulo, non ti si sente. Mulo offende dai piani bassi e minaccia di staccare la corrente. Vabbè. Torniamo a... No, finite, no? Dai, 10 minuti di fuoco. Allora, come dicevamo all'inizio, l'ultima lettura di questa puntata viene da Jap, che è il blog dei Wuming. E parla appunto della didattica a distanza, la DAD, che è diventata un'esperienza comune a giovani e meno giovani, insegnanti e studenti in quest'ultimo periodo. Chissà, vediamo se lo rimarrà. L'articolo è del aspetta che ci guardo, che non mi ricordo bene. Allora, è del 20 aprile, per cui praticamente sono tra le prime considerazioni sulla didattica a distanza. E sono fatte dalla rete bessa, scusatemi, che sono appunto collettivi di insegnanti. Sono un docente ingenuo, non so come fare la DAD, didattica a distanza. Vado sul sito del Ministero dell'Istruzione e vedo il link didattica a distanza. Clicco. Ci sono due menu. Il primo è esperienze per la didattica a distanza, l'altro piattaforme. Sotto questo secondo punto sono elencate tre piattaforme: Google, Microsoft, Amazon. Tre enti privati tra i più potenti al mondo schiaffati in bella mostra. Per capire cosa questo voglia dire, occorre fare un passo indietro nel ragionamento. Nel suo intervento al Parlamento, la ministra dell'Istruzione ha stanziato un investimento di 85 milioni di euro per rendere possibile la didattica a distanza su tutto il territorio italiano. Dell'intera somma, solo 5 milioni sono stati dedicati alla formazione del personale. È l'unica misura economica prevista dal primo intervento della ministra, esplicitando prima gli strumenti e poi la garanzia economica di chi fino al giorno prima della chiusura aveva contratti precari. Il fatto che la scuola non debba gravare ulteriormente sullo Stato è da prima implicito e poi confermato nel decreto del 6 aprile. Nessun problema, in fondo le piattaforme per la didattica di online suggerite dallo Stato sono ad uso gratuito e l'utilizzo, per esempio, dei servizi Google è già diffuso. Moltissime insegnanti, infatti, al momento della presa in servizio, sono obbligate ad attivare l'account istituzionale su Gmail. Ma in questo momento l'accelerazione è evidente. Molti insegnanti, uno, hanno usato le chat del cellulare per rientrare in contatto con le loro classi, utilizzando in molti casi l'account Google registrato sul loro dispositivo. 2. Utilizzano Google Meet per svolgere attività sincrone con le video lezioni. 3. Utilizzano Google Classroom per lo scambio di materiali. Infine, 4. Hanno partecipato ad attività succedanee e a consigli di classe e collegi docenti su piattaforme Google. Già, i registri elettronici sono gestiti da enti privati e sono massicciamente utilizzati perché obbligatori dal 2012, ma trascurare la forte ingerenza da parte di enti privati in un'istituzione pubblica è molto rischioso. E il fatto che ciò stia avvenendo in maniera acritica, tranne rare eccezioni, produrrà mostri. Il silenzio acritico che accompagna questo ingresso molecolare del privato nella scuola pubblica è allarmante per diversi motivi. Innanzitutto, il fatto che queste piattaforme siano il luogo in cui molti istituti prendono decisioni collegiali, in teoria non legittime, ma pronte a diventarlo, in funzione di deroghe o decisioni future. In questo modo le major sono oggi essenziali per il funzionamento della governance scolastica. In secondo luogo, c'è la questione della cosiddetta privacy, rispetto alla quale le discussioni e i contenuti delle circolari sono indietro di una ventina d'anni. Viene quasi da dire scusi, ma ha mai sentito parlare di Cambridge Analytica? Dobbiamo cominciare a dire che pensare la privacy esclusivamente da un punto di vista individuale oggi è fortemente limitante. Il problema principale non è solo il contenuto del singolo messaggio, ma il fatto che i flussi di dati che mettiamo a disposizione rivelano le nostre abitudini, i nostri gusti, le nostre necessità, a chi poi non farà altro che monetizzarli, sfruttarli per i propri interessi. Il problema non è solo che il Grande Fratello ti punisce se non la pensi come lui, ma che usa i tuoi dati per capire come guadagnare su di te. Da questo punto di vista, Google e Microsoft sono tutt'altro che trasparenti, tanto che dove Google è già stato ampiamente testato, il dibattito è piuttosto feroce, mentre in alcuni paesi gli strumenti Google sono stati banditi dalla scuola. Cazzo, non l'avevo messo. Prof, perché non usiamo Meet? È più facile! Il lato oscuro è più forte. No, no, no. Più rapido, più facile, più seducente. Ma come distingo quello cattivo dal buono? Lo imparerai quando sei calmo, in pace. Un Jedi usa la forza per saggezza e difesa, mai per attaccare. Ma dimmi perché non no, può... No, non c'è perché. Devi disimparare ciò che hai imparato. D'accordo, ci proverò. No, provare no. Fare o non fare. Non c'è provare. La questione è enorme, dato che non ci sono attualmente piattaforme free in grado di garantire servizi altrettanto efficienti e funzionali per una massa così spropositata di utenti. Tuttavia, possiamo condurre alcune forme di resistenza che nessun collegio docenti, nessuna circolare, nessun dirigente al momento ha il potere di negare. Durante la trasmissione Ora di Buco, su Radio Onda Rossa, un professore intervistato ha chiarito molto bene i rischi dell'uso acritico delle piattaforme tossiche, suggerendo possibili alternative. Inoltre, il dibattito su JAP, in caccia al post, offre molti spunti. Ne suggeriamo alcuni. Su ethical.net si trovano numerosissimi software con standard etici decisamente più elevati rispetto a Google. I software Framasoft, di cui abbiamo prodotto l'inchiesta Scuole in Emergenza, sono più che validi. Greenlight è un software open source utile per creare room e condividere video lezioni. E ricordatevi che potete usare Android senza ricorrere a Google. Rispetto agli studenti e alle studentesse più deboli, la ministra ha suggerito l'uso di piattaforme dal sito delle MUR, ma, come abbiamo detto, senza relazioni quelle piattaforme sono inutili. Per il resto, la ministra ha fornito vaghe indicazioni sul non lasciare indietro nessuno, ma senza stanziare le risorse necessarie. Il personale di sostegno non è stato aumentato. I corsi di italiano per stranieri, forse con la sola eccezione dei CPIA, i centri per l'istruzione di adulti, in cui i corsi L2 hanno un peso importante, si sono interrotti. Educatrici ed educatori vivono nell'inferno della relazione con la loro cooperativa. I soggetti con maggiori necessità, cui la Costituzione stessa riconosce il diritto di essere aiutati, sono lasciati nell'abbandono. Per cavartela ti deve andare bene. Mattinata per me è tragicomica, è stata quella in cui provavo a far iscrivere un alunno con disabilità cognitive e un non italofono alla piattaforma Google Classroom per guidarlo passo passo nella serie di azioni necessarie all'iscrizione. C'è stato bisogno di 5 dispositivi. Il mio cellulare si connetteva con il cellulare della madre per le istruzioni vocali, il cellulare del ragazzo riprendeva lo schermo del suo computer in modo che io lo guidassi passo passo nell'esecuzione dei compiti, il mio PC controllava se l'iscrizione era avvenuta. Era tutto un "ah, inquadra lì, spingi su quel tasto, inventa una password, segnala su un quaderno, no aspetta, quella non va bene, aspetta, hai spinto il tasto mute, non sento più niente". Questa situazione è in realtà una delle migliori. Il ragazzo ha accanto a sé un genitore e un insegnante che hanno la possibilità di dedicargli diverse ore, ma basta poco perché la situazione diventi drammaticamente diversa. Il fatto è che il problema è molto più profondo. Anche in questo caso il sistema su cui stiamo impostando la didattica a distanza è già sbagliato di suo. Quando parliamo di disabilità, difficoltà di apprendimento e didattica a distanza, dovremmo riflettere sul fatto che l'inclusione non si realizza solo fornendo tablet e PC, cosa tra l'altro fondamentale, ma con un ripensamento globale del modo di fare scuola. Questo genere di riflessione nella concitazione dell'emergenza non è ancora avvenuta, ma è evidentemente necessaria. In queste settimane ogni insegnante di sostegno si sta arrangiando come può, cercando con creatività e dedizione canali comunicativi per tenere tutti dentro. Bene la creatività, bene la dedizione, ma senza un intervento sistemico che coinvolga famiglie, servizi sociosanitari, servizi educativi, l'inclusione con la didattica a distanza non sarà del tutto raggiungibile, sarà anzi problematica in sé. Finirla qua, Palmiro. Sì. Bisogna anche imparare a finire le cose, visto che già finiscono di per sé. Sì, no, io penso che in realtà finirò qua la lettura di questo articolo, che è molto più lungo. Avrei voluto leggervi degli altri stralci, ma anche no. Andatevelo a leggere, ricercatelo sui vecchi post di Jump, il blog dei Fuming. E penso molto di più lasciarvi ascoltare questo tappetino che stanno facendo Neve, Palmiro e l'Arbus. ti sei alzato troppo. Volete chiudere? Ma sì, io manderei l'ultima canzone. Ho visto, vedo che la porta di frittole sta chiudendo le palpebre lentamente. Sì. I nostri compagni sono pure andati a mangiare al ristorante e noi qua intrappolati. Compagni fino a mezzogiorno. Insomma, una sporca verità. Insomma, no. Compagni in ritardo. Grazie Beppi. Grazie Wuming. Grazie Palmi. Grazie ascoltatrici e ascoltatori. Spero vi siate divertiti. E di non avervi tediato con Tappetini Live, il gruppo provvisorio appunto che si occupa di suonare in assenza, diciamo, in assenza di musica e di YouTube, insomma, quando manca internet noi suoniamo generalmente. Ma non ci sentite perché mandiamo per frequenze DAB, non più con internet. Frequenze telepatiche. Telepaliche. Ma comunque che siamo troppo bravi e quindi ci invitano sempre a suonare. È vero. Perché non ci devono pagare. Forse siamo troppo in ritardo. Siamo troppo gratis. Buonasera a tutti, teleascoltatori numerosissimi di Radio Wombat. È stato un piacere con voi in quest'altro venerdì senza nomea, senza titolo, senza frontiere. Senza frontiere, sì. Un altro, per me che seguo determinate dinamiche religiose, è stato un altro venerdì del digiuno, ma questa è una cosa puramente personalissima. Sappiamo che non è vero, Palmi. È vero. È stato un piacere essere qui con voi, Beppi. Piacerissimo. Un piacere con Rev e con Albus. Io. Grazie. Grazie a voi. 21:18. Dai. Non è facile tenere dura e essere gli unici sfigati a trasmettere in estate. Cosa sarebbe Radio Wombat senza frittole. Niente, un saluto ancora a chi ci ascolta da Sasso Leone e un bacio. E vai, smettiamo di occupare il palinsesto di Wombat e torniamo. Quindi vi diamo il saluto e buon ascolto nei programmi di Radio Wombat e per una bella selecta di rock inglese, il solito della bobinona. Ciao. Bella. A venerdì prossimo, dai. Ciao. Tenete duro sulla bobina di Wombat. E buone vacanze. E altra musichetta d'ascensore per voi.